Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra. Buongiorno. Gaber con il suo talento ha fatto una sintesi di quello che è capitato ieri, una sintesi che nessun commentatore politico avrebbe potuto fare meglio. Infatti, se qualcuno dovesse capire la politica italiana attraverso quello che è successo ieri all'interno del PDL, forse gli verrebbe solo un gran mal di testa. Sentite Brunetta alle 12.30. Dopo lunga e approfondita discussione, sono stati decine di interventi, si è messo in votazione e l'opzione di votare la sfiducia al governo è stata assunta all'unanimità dei presenti. Per controprova, l'opzione di votare la fiducia non ha ottenuto alcun voto. Ne deriva che, per quanto riguarda il gruppo parlamentare del Senato, all'unanimità si è deciso di votare la sfiducia al governo Letta. Due ore dopo, Berlusconi. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità di fare e l'abbiamo fatto anche perché avevamo la speranza che potesse cambiare il clima di questo nostro paese. Pensavamo che questo clima, che qualcuno aveva addirittura chiamato come guerra civile fredda, potesse andare verso una sorta di pacificazione di cui credo che un paese civile abbia davvero bisogno. Questa speranza non l'abbiamo deposta, la conserviamo ancora. Il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo che possa produrre quelle riforme strutturali e istituzionali di cui il Paese ha bisogno per modernizzarsi, abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Dopo Brunetta e Berlusconi, i 23 dissidenti, diversamente berlusconiani, che forse si riuniranno oppure no sotto la sigla Alfano segretario, sono una cosa nuova oppure sono semplicemente l'altra faccia di un accordo politico tra Berlusconi e Alfano? Qui con me ho i miei prestigiosi compagni di viaggio, Mario Secchi e Pietrangelo. Buongiorno. Buttafuoco. Mario. Ma tanto bisogna dire che quella di ieri è una svolta. È certamente la fine di una monarchia. Non so se sarà l'inizio delle cosiddette diarchie, cioè se ci sarà poi una collaborazione piena tra Berlusconi e Alfano. Questo è ancora da decidere. Ecco, Pietrangelo Buttafuoco, tu cosa ne pensi? Siccome tutto siamo fuorché una nazione normale, è stato solo un assestamento del corpaccione molle di questa nostra Italia e quindi il centro ha voluto scegliersi una nuova faccia. E credo che la monarchia non sia finita perché, ahimè, la monarchia in Italia non c'è. C'è soltanto una repubblica con neppure tanto grande peso di sovranità propria. Cioè l'anarchia. Gaber aveva ragione. Ecco, Letta nel suo discorso al Senato ha fatto l'elogio della stabilità, di quella stabilità tutta democristiana che ha permesso lo sviluppo e il miracolo economico in Italia. Più e più volte in questi mesi mi avete ascoltato tessere in Italia e all'estero l'elogio della stabilità. Stabilità intesa come valore assoluto da perseguire e alimentare ora dopo ora. Stabilità messa così clamorosamente a repentaglio. Non è sempre stato così nella storia italiana. Nella primissima fase della Repubblica, dal 1946 al 1968, abbiamo avuto una stabilità politica impensabile oggi. In quegli anni, dal 46 al 68, tre presidenti del Consiglio hanno governato la maggior parte di quel tempo. I benefici della stabilità di allora li conoscono tutti gli italiani, hanno avuto conseguenze: la ricostruzione delle macerie della guerra, il boom economico, una crescita media del 5% l'anno, un debito pubblico che a quel tempo era ben al di sotto del 50% del PIL. E Letta ieri si è proposto in qualche modo come erede di quella tradizione, aveva improvvisamente quasi una postura diversa, una postura di leader, da leader, un uomo timido che si è rivelato in realtà tutto d'un pezzo, in qualche modo quasi d'acciaio, l'erede cioè di quella stabilità democristiana che ha rivendicato nel discorso. Ecco, è un Letta nuovo quello di ieri, senza più alibi, come dice l'editoriale del Sole 24 Ore oggi, Buttafuoco? Sì, secondo me dobbiamo aprire un credito e dire che è nuovo, c'è una novità. Non corrisponde, secondo me, neppure al canone che abbiamo utilizzato da osservatori spesso in questi anni su quella che è stata l'eredità del gruppo giovanile democristiano, che si confronta e si incontra perfino trasversalmente nel campo del centrodestra e del centrosinistra. Vorrei dire che ha ascoltato la lezione che è arrivata dalla Germania e ha incarnato un modello di riferimento per il corpaccione moderato italiano che finora è stato frastornato, magari assecondato, ma senza avere una guida politica. Cioè la Germania, Mario? Chi? La Germania chi, scusami? Tu pensi che... Quale Germania? Perché... sai. Quale? Quella di Kohl, la Merkel, quella prima? È un Merkelino. È un Merkelino, Merkelino. Così come vedi che gliel'ho tirata fuori. No, perché siccome... Sei d'accordo. Sono preoccupato perché sono pericolosamente d'accordo con Buttafuoco, tanto per dire. Ma io non ho squadernato Schopenhauer e Nietzsche, riferendomi alla Germania. Per tua fortuna. No. Ma insomma sono tornati i democristiani con Letta Alfano. Sì, sì, perché non è solo Letta Alfano, Minoli, c'è anche altro. Adesso vediamo gli altri. Infatti in questa vicenda appunto non ci sono solo Letta Alfano, che è il compagno di avventura nel governo, ma ce n'è un altro campione, il campione emergente del PD, Matteo Renzi, di famiglia democristiana. Letta e Renzi il giorno prima della fiducia hanno pranzato insieme, hanno fatto un patto che dovrebbe essere un patto forte e stabile. Letta al governo per almeno i prossimi 2 anni, Renzi segretario del partito. Ma è un patto che può durare secondo te, Pietrangelo? Non può durare per un motivo, a meno che duri l'idea stessa di partito, e quindi non può durare perché l'idea stessa di partito ormai è logorata, non funziona perché nel territorio tutto ciò che può avere un senso deve essere per forza di cose un senso leninista, e quello ce l'ha soltanto quella parte del Partito Democratico che ha ereditato lo schema, l'istinto, il fiuto e la tradizione del Partito Comunista, che non è offensivo ricordarlo, ma anzi è sostanza di una stagione. Mario? Ho in diretta la reazione di Gianfranco Rotondi, che mi risponde via Twitter: moriremo democristiani, ma purtroppo nella corrente sbagliata. Più che la DC è rinata la sinistra di base. Ah, eccoci, ci siamo. Rotondi è, devo dire, è un profondo conoscitore di quella storia. Ma come Rotondi pochi, conferma la sua candidatura alle primarie del PD o di Forza Italia, di quel che sarà nel centrodestra? Glielo chiederemo, ce lo dirà direttamente. Ce lo dirà. Gianfranco, scrivici. Comunque, il problema della segreteria del PD è un problema che è sul tavolo. Un grande vecchio del PD, D'Alema, non riconosce a Renzi le stigmate del segretario. Diciamo per Renzi molto. Attento. No, forse è anche un caso per placarlo un po', non finisce il Partito Democratico. No, per l'amor di Dio, non penso affatto. Penso che lui non sia la persona adatta per fare segretario, tutto qui, diciamo. Insomma. Questo D'Alema, e potrebbe essere normale, però anche Renzi solo 4 mesi fa non sembrava avesse nessuna voglia di fare il segretario del partito. Lei cita sempre un poeta francese che dice: bisogna saper forzare l'aurora, che è una bellissima, bellissima frase. Sembra Arterio Sclerovio, sempre, 3 volte, su tre. Ecco, forzare l'aurora, che è una bellissima immagine, adesso non è per lei avere il coraggio di buttarsi nella mischia e tentare di cambiare il PD? È una bellissima domanda. Io però credo anche che le idee in politica valgano più degli uomini. In questi ultimi sei mesi io mi sono sostanzialmente candidato a tutto. Si candidasse anche a questo? Cioè, mi è mancato l'amministratore di condominio. Scusi, poi e a questo no, provi a rispondere seriamente. A questo non mi candido. No, ecco appunto, sei candidato a tutto, è la cosa più seria, no. No, non è la cosa più seria. Perché è la più difficile da fare questa. Beh, non che fare il Presidente del Consiglio contro il proprio partito fosse semplice, diciamo. Infatti, però personalmente non credo di essere adatto a tutto. Il Partito Democratico deve fare una riflessione su se stesso. Il mio modello di Partito Democratico è un partito molto più liquido che solido, molto più legato a valori forti, ma a modalità leggere. Quindi, non credo di essere la persona adatta. Bene, e ci sono persone, io do una mano, io sto nel mio partito e sono desideroso di farlo. Allora le faccio la domanda in un altro modo. Lei cita spesso, non sempre, Tony Blair e dice: Tony Blair è stato grande perché ha rifatto l'Inghilterra, ma prima si è preso il partito, lo ha rifatto e poi col partito rifatto ha rifatto l'Inghilterra. Se quello è il suo modello, non è anche la strada da seguire? Non nell'Italia del 2013. Beh, fortunatamente, almeno per lui, Renzi ha cambiato idea, l'evoluzione della situazione politica l'ha portato in un'altra direzione, ma parlavamo del patto tra Renzi e Letta. Finirà per essere il solito doppione, il dualismo, tornando indietro nel tempo, Moro Fanfani oppure D'Alema Veltroni, Buttafuoco? Finirà nei limiti della personalità, degli umori, perché per Renzi, per una personalità come quella di Renzi, fare il leader, il segretario del partito, sarà come ripetere l'esperienza di sindaco a Firenze, fare una cosa che non fa fino in fondo per andare a fare altro fuori, sempre più lontano, immaginando chissà. E quindi in questo senso, in qualche modo, potrebbe ripetersi lo schema che c'è stato tra Prodi e Veltroni, sì. Mario, perché è un segretario che incalza il Premier dal momento in cui viene nominato, perché in fondo pensa di poterlo sostituire o vuole sostituirlo. Vuole sostituirlo. Così è andata. Andrà così anche fra Letta e Renzi? È probabile, perché la storia italiana tende a ripetersi. Io in questo caso mi dichiaro di rito dalemiano, perché sarei per la separazione delle due cose, cioè della segreteria del partito, che è impegnativa, con invece la presidenza del Consiglio affidata ad un'altra figura. È una bella partita, però, e indubbiamente sono due cavallini che adesso hanno cominciato a correre sul serio, sul autonomamente serio, sì. Ecco, comunque, per tornare al discorso di Letta, nel suo discorso a Camera Senate il grande assente in qualche modo è sembrato essere la gente, gli italiani con i loro bisogni, al di là delle dichiarazioni che sono state pure interessanti di Letta. Il problema del rapporto con il paese reale, ecco, quello che soffre e che sopporta sempre meno i bizantinismi della politica. Dopo la pubblicità, no, pensavo che ci fosse la pubblicità, non c'è la pubblicità, e quindi andiamo avanti. È così secondo te, Mario? Ma è possibile. Tutte le congetture che noi facciamo adesso sono su un mondo che è in divenire, ma parlo di queste ore, ovviamente. Pensiamo a quello che sta succedendo appunto nel centrodestra. E appunto per questo io penso che le previsioni siano proprio di brevissimo periodo, cioè day by day. Ecco, c'è una cosa interessante che abbiamo ripescato nel nostro archivio a proposito del rapporto fra le istituzioni e il popolo. È un Cossiga d'annata che sembra intervistato ieri. Presidente Cossiga, ma c'è un nuovo Togliatti che può far uscire l'Italia da Tangentopoli senza passare per una guerra civile? Lei lo vede? No. Senta, ma perché ci sia un nuovo Togliatti? Ci vuole anche una nuova Piazzale Loreto prima, oppure proprio non c'è e basta? Non una nuova Piazzale Loreto, ma ci vorrebbe un momento di grande sincerità anche senza Piazzale Loreto. Senta, intanto però, in mancanza di Togliatti ci ha provato Consu a far uscire per decreto l'Italia da Tangentopoli. La reazione è stata violentissima. Siamo alla gente che prende a sassate i politici come aveva preconizzato lei? Credo che non ci siamo ancora, che può accadere di peggio che le sassate. Di peggio delle sassate? Si spara? No, non si spara. Non si tiene più conto di che cosa i politici dicono e di quello che lo Stato fa. Buttafuoco, che effetto ti fa questo Cossiga che sembra di oggi? Sembra di oggi anche perché rivela una vena che non è mai sopita in Italia, cioè che per realizzare le cose concrete in Italia bisogna ricorrere sempre alla sinistra. E questo è un paradosso, tant'è vero, lo ricordiamo tutti, dovette Cossiga, uomo della Democrazia Cristiana, dovette ricorrere a Massimo D'Alema per realizzare quel governo e che fondamentalmente ebbe soltanto un compito, quello di bombardare la Serbia. E quindi c'è sempre la necessità di appoggiarsi alla sinistra per fare le cose che la Realpolitik impone. Mario, sei d'accordo su questa analisi di Pietrangelo? Sì, Cossiga mi manca anche per altre cose in realtà. Era un amico? Beh, sai, telefonate alle 6 del mattino del tipo, dove sei? E veramente stavo dormendo, sono andato a letto alle 2. Vieni qui, io ho già letto tutti i giornali. Però, detto questo, la visione di Cossiga era quella di un democristiano centrismo che non c'è stato più per 20 anni, ma c'è stato il Berlusconi centrismo, e oggi potrebbe rinascere, naturalmente non con la velocità che ci aspettiamo, ma è possibile una nuova banana bianca, questo è probabile. Io volevo sapere però questa ipotesi che sta nell'aria di questo neocentrismo, è un'ipotesi come al solito giornalistica che poi non ha nessun rapporto con la realtà, oppure, perché abbiamo visto che i neocentrismi, certo, diciamo, pensiamo a Casini che in fondo era di quella tradizione da tanto tempo, alla fine è riuscito ad arrivare al 6%, insomma non ha fatto storia, non ha fatto massa critica. Sai perché c'è? Perché sono le condizioni del sistema politico a imporlo. Se tu hai una forza come quella di Grillo, che anche andando male becca più del 15%, e tu per forza sei costretto a ricostruire la grande galassia democristiana. Tu ricordi benissimo come funzionava. Cioè l'ADC era il sole intorno al quale ruotavano gli altri pianeti. Però c'era anche il muro di Berlino che forse determinava in qualche modo questo partito-stato. C'è sempre quella tragedia di una Italia che non ha sovranità. Noi, dovremmo ricordarlo spesso, in realtà non abbiamo la facoltà e la possibilità di decidere il nostro destino politico, né quello economico, tanto è vero che questo governo, che durerà probabilmente, dovrà dismettere i tesori della nostra Italia, già iniziato con Telecom, chissà come andrà a finire con Finmeccanica. Posso dire? Rapidamente, perché sarò un fulmine. Abbiamo la pubblicità, questa volta per davvero. La nostra sovranità limitata ha un numero, 2.000 miliardi di euro di debito. Se vogliamo riacquistare la sovranità, i governi devono pensare a come abbattere questo debito. Con la politica. Su questo non ci sono dubbi. Mix 24. Siamo tornati in diretta su Radio 24 con i due prestigiosi compagni di viaggio, Mario Secchi e Pietrangelo Buttafuoco, per continuare la nostra discussione sulla notizia in 3D. Vi ricordo, chiamate l'800 24 0024 oppure mandateci degli sms al 349 238 6666. Stavamo parlando partendo da Cossiga, del distacco fra il paese reale e le istituzioni, i bisogni del paese reale. Una cosa però probabilmente è capitata ieri. Abbiamo evitato, ce lo scrivono, forse una piazzale Loreto per avvicinarci a un momento di verità. È possibile che sia così o è solo una commedia? Mario. La tentazione del piazzale Loreto fa parte della liturgia politica italiana. Io sono molto d'accordo con questa considerazione che ti è arrivata via SMS, perché alla fine, non so come, in maniera arruffata, con un errore strategico di Berlusconi gigantesco sull'apertura della crisi, neanche parzialmente recuperato in realtà, oggi alle 11:30 parleranno i ministri del PDL e ne vedremo delle belle, secondo me, perché sono tutti dissidenti, questo è il punto. Beh, insomma, in questa maniera si è trovata una sorta di soluzione. Non mi ricordo lo scrittore che diceva: c'è una sola cosa regolare in Italia che funziona ed è il disordine. E, insomma, qua ci siamo. Ecco, disordine, Pietrangelo? È un'anomalia immodificabile l'Italia. È la storia dell'Italia. La storia dell'Italia, anche con In realtà forse questo corpaccione dipende dal fatto che comunque c'è la presenza della Chiesa, che anche se non è un problema o un'identità confessionale, è comunque un habitus. Non dimentichiamo che ha sfasciato quella meraviglia che era l'Impero Romano, e sono cose che ci portiamo nel sangue. Ne ha fatta una più bella. La Chiesa. Mi permetto di dissentire. È lecito. Tanto è vero che negli scavi archeologici in Cina trovano la lupa con i due gemelli. Mi permetto di dissentire su questo, però voglio dire che ha determinato il fatto che noi non siamo riusciti mai a darci uno Stato, e quindi soltanto un centro in continuo assestamento. E lì l'astuzia, la suprema astuzia di un uomo profondamente cattolico, quale fu Cossiga, era proprio nell'indicare un'unica possibilità e un'unica strada, quella di manovrare la parte ghibellina affinché i guelfi potessero stabilire la centralità. Mario? Ma niente, cioè, Pietrangelo che è partito oggi è in gran forma, sì, Pietrangelo. Solo sì. Che allora io farò il pastore sardo, va bene. Quando lo vedo pascolare, diciamo, nelle praterie della storia, mi vengono molte cose in mente. Ovviamente lui è un po' retro, un po' passatista, quindi tutto ciò che sa di impero gli piace. Ma certo, perché l'impero garantisce la stabilità. No, ma garantisce soprattutto le molteplicità delle voci, ci stanno tutti dentro, infatti, in una logica imperiale, mentre invece nel dominio che tanto piace, quello occidentalista, quello americano per intenderci, li vogliono tutti uguali, tutti livellati. Sentito il compagno imperialista, sì. Butta fuoco, io dico. A un comunista si perdona tutto. Aridatecela di ciò. Mi sembra che la DC stia tornando, perché sembra che tutto alla fine è uguale a se stesso. Ieri diceva Letta di sentirsi nel film Il giorno della marmotta, cioè in qualche modo non cambia niente. È così, Mario? Si è sentito anche Joe Condor, però ha detto che non lo era. Però a un certo punto ha pensato di smetterla di prendere gli schiaffi. E sì, ogni giorno è quello della marmotta. Lui ne è uscito bene però ieri. Guarda, la tua... E quindi un momento di verità effettivamente lo ha determinato. Beh, la tua osservazione sulla postura... non è una cosa banale, è da uomo di televisione che mi ha fatto tanto come te. Ahimè, faccio radio. Ma la radio è bella. È bellissima. È corretta, cioè ieri per la prima volta Enrico Letta, non me ne voglia, è stato veramente il Presidente del Consiglio. Sì. Fino a quel momento stava sperimentando, sì, sì. Ma ieri lo è diventato. Perché prima diceva: questo non è il mio governo, da oggi dirà. Certo, a Genova è arrivato a dire: questo non è il mio governo, il mio è il futuro governo. Il futuro governo se l'è già creato. È arrivato. Ecco, da stamattina tu mi giri intorno dicendo che a questo proposito c'è una canzone sul discorso di Cossiga, la gente, gli interessi della gente. Che cos'è? Sì. Che cos'è che ci vuoi far sentire adesso? Io mi appello a Giorgio Gaber, perché poi in fondo, siccome veniamo tutti da una bettola, siccome anche i nostri padri nel Novecento non facevano altro che correre da un postribolo alla Casa del Fascio o alla Casa del Popolo, evitando accuratamente la Chiesa, perché altrimenti sarebbero stati rimproverati. Non siamo riusciti ad essere italiani fino in fondo, anzi, quando incappiamo nell'anagrafe che ci vuole cittadini coatti della Repubblica Italiana, ci sentiamo a disagio, perché ognuno di noi vuole essere qualcosa. Allora la canzone? E quindi la canzone la affidiamo a Gaber. Mi scusi, Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano. Mario, c'hai un aggiornamento in diretta? Sì, velocissimo, alle ore 9:37 parlò Sandro Bondi. che dice l'operazione che alla mano dell'UE e del Presidente della Repubblica dietro la fiducia a Letta fallirà. Sembra il complotto Pluto giudaico massonico. Vabbè, l'abbiamo sentito queste. Demo Pluto Paperino. Demo Pluto Paperino. Però proviamo a tornare sui temi che hanno, sui temi seri. Insomma, Letta ieri ha detto anche dell'altro. Ha detto e noi seguendo l'editoriale del Sole 24 Ore riconosciamo il fatto che da adesso in poi, proprio perché questo è il suo governo, è diventato il suo governo, Letta non ha più alibi. E ha detto che ci sono delle cose da fare subito per andare incontro ai bisogni del paese. Sentiamole. Abbiamo l'occasione di fare una nuova politica economica e industriale che si concentri su tre grandi priorità. Il rafforzamento della ripresa in atto, il taglio consistente delle tasse sul lavoro e sui lavoratori, un intervento drastico sui fattori che limitano la competitività dell'economia. Dal suo insediamento il governo ha investito oltre 12 miliardi di euro, 4 dei quali sul lavoro, la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali, la lotta alla povertà. Il nostro obiettivo, dichiarato da tempo, è un aumento del PIL pari all'1% per il 2014 e superiore negli anni successivi. La legge di stabilità è l'occasione per raggiungere questi obiettivi e dimostrare al Paese che il cambiamento è in atto. Mario, sono sufficienti queste cose per ridare fiducia nella politica, nella sua azione, oppure sono pannicelli caldi o sono parole? È un primo punto di partenza, però diciamoci la verità, se non mettiamo mano al debito noi non ne usciamo. Con questa mole di debito pubblico noi non abbiamo risorse sufficienti per fare gli investimenti. Do un numero. Noi abbiamo pagato nel 2012 84,5 miliardi di interessi sul debito, 20 in più della Germania. Sono tutti soldi che sono sottratti agli investimenti. Vabbè, quindi il taglio della spesa pubblica è l'ordine del taglio giorno, della spesa pubblica, la priorità assoluta. Coraggio sulle privatizzazioni. Cioè, e soprattutto non è possibile far pagare agli italiani che già pagano con un prelievo fiscale così grande. Vabbè, insomma, diciamo che bisogna dare fiducia a Letta, sì, su questa azione, sì. Ma bisogna incalzarlo sulle riforme, perché non ha più alibi. Beh, a questo punto non li ha, cioè, perché il suo governo non ha più. Volevo farti una domanda. Sì. Ma in concreto l'IVA domani, oggi, non so quando, rimarrà al 22%? Penso di sì. Non aumenta? È aumentata. Beh, sai, c'è anche un problema di, diciamo così, di credibilità anche. Che fai? L'aumenti, poi torni indietro, insomma, che facciamo? Vabbè, qui avanti, no? In treno abbiamo visto tante. E la seconda rata dell'IMU cosa capita? No, quella dovrebbe essere, non si paga. Dovrebbe essere a posto. No. Ecco, perché comunque c'è continuità nel governo. Ecco, ma dimmi una cosa, qualcosa. Nel mondo come è stata presa questa, tu che sei super internazionale, come è stata presa questa sceneggiata? Rispondimi per l'Occidente. Tu, Pietrangelo, invece poi ti prepari a rispondere per il Medio Oriente. Ma per l'Occidente ti dico, ieri ho avuto una telefonata con un collega del New York Times che mi chiama per scambiarci, no, un po' di scenario e così via, e l'esordio è stato: Mario, what's happening? Quando Berlusconi ha votato. La BBC stamattina ha fatto un lungo servizio su Berlusconi, ha ricostruito la giornata, la carriera di Silvio. Sembrava quasi una sorta di necrologio, che non è così ovviamente, però era interessante perché dava un tratto profondamente italiano, soprattutto nella galleria fotografica. Poi c'è stato stamattina Ferruccio De Bortoli, molto divertente, mi ha mandato un tweet in inglese e dice: Don't worry about Berlusconi's U-turn, just wait for the next one. Cioè, aspettatevi anche la prossima retromarcia di Berlusconi. Questo, diciamo, è tutta una sorpresa sul comportamento del Cavaliere. Siamo in piena sceneggiatura. Direi in piena sceneggiatura. Sì. Pietrangelo, nel tuo mondo, il Medio Oriente che dice? E nel mio mondo non mi avventuro a citare le testate i network, perché poi trovo la polizia fuori. Va bene. Perché io frequento soltanto le testate, l'asse del male. Persiane. E nelle testate dell'asse del male ovviamente è stato raccontato nella chiave della commedia, però con una concretezza che interessa soprattutto il mondo di riferimento della, dell'elettorato berlusconiano, che è quello degli imprenditori, della gente che lavora, ed è quello di cercare ancora una volta la stabilità e soprattutto affrancarsi da direttive di politica estera che privano e orbano una fetta importante del mercato italiano, dettata proprio da esigenze realpolitik. Sai dove abbassano le tasse, Mario, e dove aumentano gli stipendi? In Kazakistan. Sì. Senti, Mario, stiamo per andare in viabilità, sto imparando questo meccanismo viabilità pubblicità. Ci dai un'anticipazione veloce sulla cosa bolle in pentola oggi, perché la pentola sarà piena, e poi andiamo in viabilità e ne parliamo subito dopo. Dopo le elezioni italiane, cioè la fiducia al governo Letta, la cosa, una delle cose più importanti che interessa la comunità internazionale è lo shutdown del governo americano, cioè non stanno pagando gli stipendi. E quella è una cosa serissima. Serissima. Mix 24. Siamo tornati in onda a Mix 24 insieme ai miei compagni di viaggio Pietrangelo Buttafuoco, Mario Secchi. Allora Mario, che cosa bolle in sé, in pentola? Sigla. Allora, intanto c'è un aggiornamento dell'ultima ora che siamo obbligati a dare, certo, perché a Lampedusa è naufragato un barcone di migranti. E sinora sono stati recuperati 4 cadaveri, ma pare ci siano 10 morti. Ci sono molti bambini, c'erano molti bambini in questo barcone, tra i morti anche una donna incinta. È una tragedia, come puoi capire tutti quanti, insomma, molto grande, sulla quale bisogna, come sempre, riflettere, e magari non solo fermarsi alla riflessione, ma fare anche qualcosa. Detto questo, e qui è l'Europa che dovrebbe anche fare molto, no? Beh, guarda, diciamoci la verità, questo problema, diciamoci in generale la verità, sull'immigrazione l'Italia, che è paese di passaggio di frontiera, è stata lasciata un po' sola, anzi parecchio sola. E dopodiché il fatto principale, lo avevamo un po' anticipato poco fa, è la questione della chiusura del governo americano. C'è tempo fino al 17 ottobre per mettersi d'accordo, e naturalmente però i repubblicani stanno tirando molto la corda. Ci sono addirittura dei timori per la ripresa dell'economia mondiale. Un'altra cosa interessante che stanno tenendo tutti d'occhio è la prossima quotazione a Wall Street di Twitter. Qua siamo in fase high tech, tutti si chiedono quanto può valere, se farà la stessa fine di Facebook, che ebbe una quotazione record per poi crollare. E poi ci sono naturalmente le questioni che riguardano l'Europa, un po' più larghe di quanto li abbiamo viste finora in Italia. In particolare ci sono le reazioni al discorso di Draghi, che ha detto che i tassi di interesse continueranno a restare bassi. E altre cose interessanti, diciamo, sono sempre nel settore della tecnologia, in particolare le aspettative che ci sono sugli investimenti nelle telecomunicazioni da parte di giganti come Vodafone e altri, che hanno per esempio venduto in America e vogliono investire in India. Poi c'era una curiosità che la leggo perché mi ha colpito: se hai l'auto verde hai l'acchiappo assicurato. Lo leggevo sulla stampa inglese, c'è un sondaggio che dice che le ragazze preferiscono gli uomini con le auto piccole ed ecologiche. Hai capito come cambiano i tempi? Prima... Cambia tutto, Pietrangelo. E però questa notizia rivela anche un'indicazione ben precisa. Noi sappiamo che la condizione primaria della stabilità politica parte dalla necessità di avere una risorsa nelle energie, e l'investimento nell'auto verde è fondamentale per affrancarci da quell'obbligo di mercato. Tant'è vero, se posso dirla con la malizia e ricollegarmi anche all'argomento di oggi, che è quello dell'eterno ritorno della Democrazia Cristiana, immaginando quello che potrà combinare Renzi ovviamente non è la pira, però Renzi non ha un Enrico Mattei, e non avendo un Enrico Mattei sarà obbligatorio andare con l'auto verde. Intanto abbiamo Lorenzo? No, come se... abbiamo Roberto, chiedo scusa, Roberto da Modena. Roberto? Buongiorno. Buongiorno. Dunque, mi volevo collegare a quello che dicevate prima sulla distanza fra politici e realtà. Poco tempo fa l'onorevole Letta ha detto: adesso gli imprenditori non hanno più alibi per non assumere. Nel frattempo migliaia di imprenditori muoiono tutti i giorni, chiudono le aziende. Ma con cosa, perché dovrebbero assumere se il mercato si sta restringendo continuamente? A Modena importiamo la terra per fare le piastrelle. Tutta la terra delle piastrelle è importata. Siamo capaci di importare la terra, pressarla, smaltarla, rivenderla a milioni di metri quadri in giro per tutto il mondo. Vuol dire che abbiamo degli imprenditori che poi sono capaci. E sono molto capaci, si sa. Ma con l'euro 1,35, quando andiamo ad esportare, che prima di parlare di prezzo costiamo il 35% in più per cambio valuta, ma dobbiamo avere anche veramente l'appoggio di Papa Francesco e dei miracoli. Senta, no? E allora lei cosa propone? Dobbiamo uscire dall'euro, secondo lei? Non credo che sia la soluzione. No, ma l'euro va riportato, pari al dollaro e basta, perché se noi avessimo l'euro pari al dollaro, gli imprenditori italiani sarebbero gli invasori del mondo con l'esportazione. Grazie, auguri per il lavoro. Mario? Ma chiaramente le considerazioni sono quelle di un imprenditore. La realtà è che c'è una politica monetaria e in questo momento gli americani vogliono tenere il dollaro assolutamente basso, perché fa parte della strategia della Federal Reserve. E d'altronde la BCE non ha intenzione di cambiare la sua linea in questo momento. Quindi. Abbiamo al telefono Andrea da Milano. Andrea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo tornare un attimo alla prima parte della trasmissione, cioè sulle considerazioni che avete fatto. Rapidamente, grazie. Quello che vedo io è che sostanzialmente adesso, ok, Letta con tutti i buoni presupposti anche che sta avendo dal pubblico internazionale, ma il problema è che lui sta venendo fuori, verrà fuori un governo che regge forse, probabilmente, grazie al fatto che il PDL sta morendo. È soltanto questo l'elemento di spinta. Dov'è la novità? Cioè, oggi, fino ad oggi, Letta che cosa ha governato, che cosa fa? Vabbè, adesso Letta, abbiamo detto, a Letta da questo momento in poi ha il suo governo e dovrà farci vedere che cosa sa fare. Grazie mille, Anna Maria da Roma. Ah, salve, intanto evviva Minoli che ci ha fatto superare un momento di bello trovare la Radio 24. Grazie. Velocissimamente mi sembra un dato importantissimo quello che sia emersa una nuova generazione, cioè Letta, cioè si discute, no, di Letta, di Alfano, di Renzi, per cui con una prospettiva biologica, una prospettiva proprio di pensiero, no? Che forse è in grado finalmente di coniugare i verbi al futuro, insomma, di pensare al futuro. E di darci una prospettiva, insomma, e questo è grazie mille della telefonata. Credo che questo sia veramente uno dei punti di passaggio, uno snodo importante. Tocca a questa nuova generazione prendersi il potere in qualche modo, invece che aspettare che gli venga dato. Sergio da Verona. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho 26 anni e sono in quella fascia 40%, diciamo, anche se adesso sto andando all'Eco a fare un colloquio. Comunque io sono auguri per il colloquio. Grazie. Io sono metà tedesco e quindi ho la fortuna, diciamo, di vivere un po' la quotidianità tedesca. E soprattutto di sapere la lingua, immagino. Quello è fondamentale. Si fini che il colloquio questo l'ho trovato anche grazie a questo. Comunque, quello che volevo chiedere è che secondo me ci sono due tipi di stabilità. Allora c'è la stabilità istituzionale, che sembra essere raggiunta, e la stabilità, diciamo, ideologica, la stabilità quotidiana, nel senso, in Germania io vedo collaborazione, certo. Vedo un compromesso, nel senso, quando la mia controparte c'ha ragione. Glielo riconosco, questo lei dice. Non riusciamo. In Italia questo non succede, capito? È difficile. Io vorrei chiedere se raggiunta la stabilità politica, si raggiungerà mai una stabilità in questo senso, la capacità. Bisogna stringere perché siamo in chiusura. Abbiamo capito comunque molto chiaramente il suo pensiero, auguri, lo ripeto, per il suo colloquio, però il problema è esattamente quello, la capacità di ascoltarsi e di confrontarsi su soluzioni reali invece che su visioni ideologiche.

Una svolta storica e anche fortunata, come ci dice il consigliere del cancelliere Helmut Kohl. Ho sempre sostenuto che se il conflitto con l'Iraq dell'agosto 1990 fosse esploso 6 mesi prima, noi non avremmo potuto portare a casa la riunificazione in modo così rapido e tempestivo, dato che a partire dall'agosto del 1990 gli americani si dovettero dedicare soltanto all'Iraq. Non avrebbero avuto più tempo per la questione tedesca. Picchetto della bandiera! Ripiegare la bandiera! Con quest'ultimo ordine, il 2 ottobre, l'esercito popolare della Repubblica Democratica Tedesca esce dalla storia. Il 3 ottobre 1990, giorno dell'unità tedesca, a termine il processo iniziato 329 giorni prima, con l'apertura della frontiera tra Berlino Est e Berlino Ovest. Mix 24. Sono le 10, 48 minuti e 41 secondi. Giorgio Simonelli, abbiamo con noi il professore di storia della televisione della Cattolica, Giorgio Simonelli. Pronto Giorgio, mi senti? Buongiorno a tutti. Ecco, oggi siamo un pochino di velocità. Volevo dirti, come al solito la domanda è: dov'era il canone ieri sera? Perché, lo ripeto per i nostri radioascoltatori, perché il canone è quella tassa che paghiamo per avere qualità nella programmazione televisiva. E allora noi cerchiamo di scoprire dov'è la qualità della programmazione televisiva attraverso il professor Giorgio Simonelli. Giorgio, dov'era ieri sera il canone? Ma guarda, dopo quella giornata di ieri in cui la televisione, il sistema televisivo ha mostrato anche tutti i suoi limiti, i suoi malanni, io credo che il canone fosse dopo le 21 su Rai 1 con Montalbano. Montalbano che con una replica, non so se lo sapete già, ha vinto ancora una volta la prima serata. Certo, ha vinto la serata facendo più di 4 milioni, quasi 4 milioni e 7, battendo abbastanza nettamente sia le Tre Rose di Eva sia e quello è grande servizio pubblico. Sia la tua Juventus che è stata battuta e è arrivata terza. No, veramente ha pareggiato. No, beh, come ascolti però. Va bene. Ecco, ma direi che questo Montalbano, queste repliche di Montalbano sono veramente il segno che il canone è lì, perché chi ha pagato, insomma, trova una cosa che ha valore anche nel tempo, non solo la sua prima messa in onda, ma continua ad avere valore. E questa, quindi, è la cosa importante. I soldi sono stati ben investiti. Benissimo spesi. Sono bene. Stati ben investiti a livello culturale, a livello economico, per il ritorno che il territorio ha avuto, a livello artistico. Grande interpretazione, grandi sceneggiature, grande regia. Sì. Bene, io ti chiedo scusa, ma oggi siamo in velocità oggi. Quindi comunque, viva Montalbano. Viva Montalbano, grazie mille, ci risentiamo domani, grazie tante. Ecco, abbiamo al telefono un altro campione della produzione di qualità della RAI, Paolo Del Brocco, amministratore delegato di RAI Cinema. Quest'anno una novità dopo l'altra, Vittoria Venezia con Leone d'Oro, il progetto Italy in Day di Salvatores. Ecco, quali sono le prossime sfide di RAI Cinema, Del Brocco? Ma le sfide ce ne abbiamo quasi una ogni settimana, con dei film che escono a volte un pochino più commerciali ma molte volte più difficili sotto il profilo commerciale, per raccontare questo paese con le varie sfaccettature e il linguaggio cinematografico, che a volte è un linguaggio più urticante e più difficile rispetto al linguaggio televisivo della fiction. Ecco, sicuramente. Voi avete vinto il Leone d'Oro con un documentario. Ecco, il documentario è un po' strano vincere a Venezia con un documentario, ma il documentario intanto siete contenti e poi crescerà? Ma il documentario, per quanto ci riguarda, sta crescendo moltissimo. Io in un'intervista della conferenza stampa del film del Leone d'Oro ho detto che per me i documentari sono quelli sui leoni e sulle zebre in Africa. Questi sono film, più film della realtà, che raccontano, molto interessante, che raccontano, sì, uno spaccato della società, e è un cinema diverso, è il cinema del reale che si contrappone al cinema di finzione, ma probabilmente questo prodotto ha un po' scardinato questo confine. E quindi c'è una commistione di generi che va in qualche modo a incrociarsi, perché la crossmedialità poi è anche un cross linguaggio, diciamo così. Assolutamente sì. Ecco, ma voi come pensate, o pensate in qualche modo con Salvatore Slofate, di entrare nel mondo di internet col cinema? Ma noi nel mondo internet siamo entrati già producendo dei film per il web, abbiamo fatto dei 15 web movies che vanno con cadenza mensile su RaiCinemaChannel.it, che è un nuovo portale di cinema appunto della nostra società, che hanno riscosso un grande successo, hanno alimentato nuovi produttori, nuovi autori, nuovi registi giovani, abbiamo fatto dei film di genere naturalmente adatti per la rete, non chiaro, certo, con delle storie e dei linguaggi diversi, un esperimento che ci ha portato una grande visibilità e grandi soddisfazioni. Ecco. Alcuni di questi film girati in inglese sono stati venduti in tutto il mondo. Ecco, ma il web diventerà, secondo lei, davvero un luogo dove offrire un prodotto audiovisivo diverso, un modo diverso di raccontare? Ma già lo è, per quanto riguarda il cinema lo potrà diventare laddove si risolverà il problema della pirateria, altrimenti non per il cinema sarà solamente un problema. Perché? Perché la pirateria sta sconvolgendo il mercato, soprattutto italiano, perché in alcuni paesi sono stati presi dei provvedimenti seri, perché ormai non solo i giovanissimi, ma anche le persone di una certa età, le persone mature, vanno facilmente su un tablet e vedono facilmente in streaming un film che è magari uscito in sala quel giorno stesso, se non addirittura il giorno dopo. E questo è un disvalore enorme per tutta l'industria della produzione culturale, anche perché significa occupazione, fiscalità e indotto. Ecco, questa è la critica, ma la soluzione quale può essere? La soluzione è molto semplice, ci sono le leggi che in altri paesi vengono fatte e da noi no. Le prossime uscite, prima di chiudere? Le prossime uscite, abbiamo oggi esce un bellissimo film di Daniele Lucchetti, Anni Felici, un bel film sugli anni 70 con una storia di grandi sentimenti, grandi amori, un amore un po' particolare, non è quello che vediamo tutti i giorni, con Michele Ramazzotti e Kim Rossi Stewart. E poi abbiamo la prossima settimana Aspirante Vedovo con De Luigi e la Littizzetto, una commedia amara, non è la classica commedia comica, è un po' un ritorno alla commedia all'italiana. Ecco, un'ultimissima cosa, voi avete lanciato, mi sembra, a Venezia un progetto, chi vuole può contribuire alla scrittura di una sceneggiatura che poi sarà in qualche modo realizzata, cioè Meltaplot, lo slogan è Be a Meltaplotter, è un social game basato sulla scrittura di una sceneggiatura, cioè ognuno può scrivere dei mattoncini, dei caratteri, 140 caratteri. E dove scrive? Chi scrive? È su meltaplot.rai.it, questo è il sito, spero di sia esattamente questo, comunque se si cerca su Google è facile, ed è un sistema per costruire dei film in un modo diverso. Vincerete il Festival di Roma? Prima di chiudere una battuta? No, di sicuro, grazie. Non ci interessa. Non vi interessa perché? Attimo. No, a noi interessa portare dei film che si abbiano visibilità. Poi poi se si vince è meglio. Grazie a tutti. L'appuntamento con Mix 24 è per domani mattina alle 9. Grazie mille.